Benvenuti, benvenuti a questo 19° episodio del Focolare Elettrico, il nostro podcast su videogiochi e game design. Io sono Marco. Ehi, sono Jacopo. Ogni volta mi stupisco che ti ricordi. Esatto. E io dico subito che, cari ascoltatori, vi abbiamo mentito. Vi abbiamo mentito perché avevamo detto che la puntata 17 di Unskippable Credits sarebbe stata l'ultima puntata, no, della nostra saga in cui estrapolavamo le varie parti di un videogioco e le ricostruivamo in questa serie di podcast per raccontare ogni loro sfaccettatura. E mentre avevamo detto che appunto avremmo finito questa serie con i credits, con quello che scorre sullo schermo alla fine del videogioco, questo episodio tecnicamente, no, si riallaccia ancora a questa serie ed è una buona metafora anche per, come dire, vedere come questo podcast si evolverà in futuro, no? Perché, come dice il titolo, l'episodio di oggi si intitola New Game Plus. Ma andiamo con ordine. Prima è una cosa molto meta, cioè abbiamo finito il esatto, podcast, però adesso ricominciamo. Esattamente, no? Voglio dire, se questa sono queste cose qua che mi fanno andare in brodo di giuggiole. Ma come dicevo, andiamo con ordine e prima di partire con l'argomento principale di oggi, direi che è il momento della nostra rubrica Download Updates, dove il nostro Jacopo ci racconterà qualcosa delle ultime vicende avvenute nel mondo dei videogiochi. Quindi pieno di brodo di giuggiole c'è l'antipasto di Avengers. Perché questa settimana abbiamo un discorso che in realtà è un'altra volta collegato al nostro episodio, quindi continuano a succedere cose che si ricollegano ai nostri episodi in qualche modo. Che non so per quale scherzo. Sta strana coerenza narrativa, veramente. Forse ci rivedo io, tipo quando c'è Nelson che vede il padre in ogni albero e si abbraccia agli alberi sui Simpson. Comunque vabbè. Che è successo? Che sono uscite delle notizie un po' una dietro l'altra questi ultimi giorni su Avengers, anzi scusa, Marvel's Avengers, mi pare che sia il nome completo. Oh, un attimo. Dicevamo. Eccoci, piccola pausa piccola tecnica. Pausa. Marvel's Avengers. Yep. Marvel's Avengers è questo gioco che è uscito recentemente, che è un... non si sa bene cosa, un game as a service, è tipo un Destiny, un RPG, è anche un terza persona picchiaduro, è anche un c'è anche una storia, loot, persona, non si sa. Quello che si sa invece è che non è andato benissimo, diciamo, a livello di vendite non ha fatto male, mi sembra, ha venduto abbastanza. Sa che è un 6 su 10 su Steam e che le review sono... mixed, quindi. Esatto, un po' mista come reazione del pubblico, perché alla fine era esattamente come si prospettava dai video che erano usciti prima del lancio, cioè un gioco fatto essenzialmente per vendere microtransazioni, fare vendere tipo cose estetiche. Quello che, no, desiderano tutti i videogiocatori, no? Mi sembra. Sì, essere spolpati, essere privati del loro denaro, no? Non è per quello. È la meccanica di gameplay migliore della storia. Quindi, un po' come Anthem, ha avuto lo stesso problema di troppe, diciamo appunto, meccaniche per il grinding, per la personalizzazione estetica, eccetera, e poco contenuto effettivo, cioè poco... che ne so, poco divertimento, poche attività. Vabbè, ma il divertimento a cosa serve nei videogiochi? È molto così da anni 90. È sopravvalutato il divertimento, esatto, il grinding. Quindi diciamo, molti giocatori sono lamentati di questa scarsa, di questa mancanza di contenuti e questa appunto campagna un pochino corta. E matchmaking fatto un po' male, che non funzionava benissimo, pieno di bug, pieno di problemi, insomma. Fatto sta che è uscita la notizia pochi giorni fa che la player base attiva, cioè le persone che giocavano attivamente su Avengers in contemporanea, quindi che ne so, il picco massimo di persone che stanno giocando in contemporanea su Steam era minore di Deus Ex Mankind Divided, che è un gioco prima di tutto single player, uscito da un sacco di anni, tipo almeno 3 anni saranno, penso, E tra l'altro considerato un fallimento, cioè è il gioco che loro hanno smesso di fare, perché è sempre lo stesso studio di Square Enix che ha fatto quel gioco, e Square Enix gli aveva detto, oh, basta Deus Ex, fate Avengers. Capito, perché Deus Ex è un fallimento, invece lo giocano più persone. Eh beh. E questa cosa molto ironica alla fine ha fatto sì che Square Enix, appunto, questa notizia molto più recente, ha deciso di posticipare la patch, l'aggiornamento di Avengers per PS5 e Series X per concentrarsi prima su renderlo un gioco. Cioè, ho detto, tu sai, tipo, creare un prodotto, questo concetto così esoterico quasi. Esatto, cioè prima ho detto, ok, proviamo un po' a sistemare il gioco, a farlo diventare divertente, a farlo funzionare, e poi magari lo facciamo uscire sulle console nuove. Ma ora, diciamo, in questa puntata parleremo un po' più nel dettaglio del perché è fatto male, eccetera. C'è da dire che come discorso generale, uno dei problemi di questo gioco era cosa succede dopo aver raggiunto il finale. O meglio, dopo aver raggiunto un finale, che è quello della storia. Se mi posso permettere un commento prima di andare avanti. Mi sorprende che... Guarda, in realtà no, non mi sorprende quasi, perché sono cinico io, però uno direbbe magari forse, no, cos'era quello, l'ultima esperienza di videogioco di Star Wars, sempre dell'EA, che non, se non ricordo male. Battlefront 2, sì. Esatto, Star Wars Battlefront 2. Tu diresti, ma forse hanno imparato qualcosa? No. No, vabbè, lì Star Wars Battlefront 2 aveva il problema che era un gioco molto polished, cioè molto ripulito, molto, cioè c'erano pochi bug da quello che ricordo, ma aveva proprio un problema di pay to win, cioè di persone che potevano spendere soldi e essenzialmente vincere le partite online più facilmente, perché in Battlefront 2 hai proprio delle carte che puoi giocare durante il gioco, che ti danno armi potenti, veicoli potenti, cioè vantaggi effettivi, capito, proprio sul... Certo. Sulla battaglia ci sta. Allora sì, sotto un certo punto di vista c'è stato un miglioramento, però dopo il backlash che c'è stato per questo gioco di microtransazioni, letteralmente, uno si aspettava che forse avessero imparato qualcosina in più. Sì, più alto su Anthem, cioè Anthem veramente fatto una botta per terra assurda. Quindi, per parlare di argomenti un po' meno deprimenti, dopo esserci fatti però una risata con questa storia degli Avengers, ritorniamo appunto all'argomento dell'episodio di oggi, il New Game Plus. Che cos'è, Jacopo, questo New Game Plus? Ma non si sa. Cioè, allora, noi abbiamo detto New Game Plus, ma in realtà nel titolo ci andava bene anche Endgame, come Avengers. Sempre per stare in argomento. Esatto. Perché più o meno parliamo della stessa cosa, cioè sono due modi di rispondere alla domanda che cosa succede dopo aver raggiunto il finale di un gioco, un finale del gioco. Esatto. E se mentre è difficile sapere cosa ci aspetta tutti noi dopo la fine, è più facile parlare, almeno in questo caso, cosa succede dopo la fine di un videogioco. No? Questo intermezzo molto filosofico, mi sento... Quando muori vai a finire in un podcast di videogiochi, rimani intrappolato lì dentro. Noi in realtà siamo già morti e queste sono le vostre voci che si mangiano. Il nostro purgatorio personale, dice. Esatto, che schifo. Vabbè, allora, diciamo che velocemente, il New Game Plus è una cosa che si sblocca ad un certo punto, a discrezione degli sviluppatori, appare questa opzione, di solito nel menu principale, e dice, ok, New Game Plus, cioè fai una nuova partita, plus qualcosa, più qualcosa. Esattamente. Invece l'endgame è meno facile da definire. Mm-hmm. Cioè di solito è tipo vicino, intorno al finale narrativo, un po' prima, un po' dopo, il finale, diciamo, della storia principale del gioco. Di solito non introduce molti nuovi filoni narrativi, ma aggiunge qualche novità di gameplay o nuove zone, nuovi nemici, insomma qualcosa in più verso la fine di contenuti. Tutto, esatto. Qua. Io l'avevo pensato un po' alla cosa dell'endgame questa settimana, me l'avevo pensato anche un po', tipo, forse si potrebbe un po' definire, sto dicendo un po' troppe volte, ma... un po'. Perdonate, mi accorgo sempre mentre parlo. Si potrebbe definire forse come quel momento in cui non c'è più crescita, diciamo, verticale del personaggio, non ci sono più potenziamenti da sbloccare, ma solo semplicemente... Forse sì, forse potenziamenti sì. Cose da fare con tutta quella forza, no? Con quel potere che hai sbloccato durante l'avventura. Nuovi nemici, le ultime sfide che sai di poter affrontare con tutto quello che hai ottenuto, ma che una volta affrontate non ti danno molta altra possibilità di crescita, se non molta altra possibilità di crescita, ma solo, come dire, un badge o una medaglia per dire sì, ce l'ho fatta. E quindi questi, come dicevamo, sono le due grandi categorie, le due grandi, come dire, opzioni, come si dice, vie di pensiero di ciò che succede alla fine di un videogioco. Puoi ricominciarlo con qualcosa in più, con il New Game Plus, oppure giocare nell'endgame con tutto quello che hai sbloccato, i vari potenziamenti, eccetera, eccetera, le ultime sfide, quelle più difficili. E qui però, cioè, allora, definiamoli un po' meglio. Giustamente. Tu magari sei più esperto del New Game Plus, quindi che cos'è di solito? Cioè, ok, c'è questa opzione nel menu che si sblocca, ok. Entrambi, sia il New Game Plus che l'endgame, cercano un po' di aggiungere contenuti, di rendere più longevo il gioco, però... Esattamente. Il New Game Plus come lo fa? Allora, parlo un po' per esperienza della mia esperienza personale in questo caso. Per me il New Game Plus mi sembra di aver capito che sia diventato molto famoso principalmente con i Souls. Non sto dicendo che siano assolutamente i primi ad averlo fatto, ma forse penso sia stato il momento in cui, come dire, ha avuto più eco nel mondo dei videogiochi. Vabbè, è esplosa come caratteristica, esatto. Cioè come feature. E infatti, almeno per quanto riguarda i Souls, il New Game Plus prevede che tu ricominci da zero, non da zero, da capo il gioco, con tutte le armi, tutti i livelli e tutti i potenziamenti che avevi sbloccato durante la prima partita, solo senza le chiavi del gioco, ovvero quegli strumenti, tutti gli oggetti nel gioco che ti permettevano di procedere con la trama. Quindi tu rivivi la trama, affronti di nuovo gli stessi nemici, molto spesso però potenziati, con più vita, con più forza d'attacco, eccetera. Però allo stesso tempo tu sei molto più forte del vero inizio della partita, hai tutte le tue armi che hai costruito, i livelli che hai ottenuto, quindi, come dire, il gioco si ripropone se stesso, ma in un modo diverso, che è appunto differente dal classico prova a giocarlo in modalità difficile, perché lì era letteralmente la stessa esperienza di gioco, perché partivi da zero, con zero equipaggiamento, un inizio pulito, ma semplicemente con qualche difficoltà in più. Mentre qua la progressione continua, non c'è un reset, ma tu continui ad evolverti in questo modo di gioco e riproponendoti appunto sfide che magari all'inizio ti sembravano difficili, che ora provi a rivivi appunto con... nuove armi, nuove modalità. E questo, come dicevo, è diventato molto famoso nei Souls, che hanno portato all'apice questa meccanica, non all'apice, però non è la parola che cercavo, però hanno sfruttato all'estremo questa meccanica. Non so se lo sai, ma i Dark Souls prevedono fino al New Game Plus 7, se non ricordo male. Wow. Che ogni volta che ricominci, fino a 7 volte i nemici sono sempre più forti, quindi New Game Plus 1 sono un po' più forti, New Game Plus 2 ancora più forti, 3, 7, io pensavo tipo 2, io pensavo solo 2 volte, ok. Il massimo è il 7. Non so bene se in tutti i titoli di Dark Souls, ma di sicuro nel primo sì. Poi invece tu mi accennavi che questa meccanica era stata usata anche in Ninja Gaiden. In altri, sì, Ninja Gaiden. Cioè in realtà non nasce con i Dark Souls, con i Souls, esatto. Scusami, perché mi sa, forse anche Demon's Souls ce l'avevano, non sono sicuro. Mi sembra di sì, lì non sono certissimo. Lo scopriremo quando uscirà il remake. Esatto, quando uscirà il remake. Ci rifaremo a quello. In Ninja Gaiden c'era anche qui New Game Plus, quindi cioè, appunto, ricominciavi la partita, ma mantenevi alcuni oggetti, alcune abilità, alcune armi che non erano magari appunto ultra importanti per la storia. Sicuramente mi ricordo alcuni oggetti, alcune armi non so, però la cosa fondamentale è che potevi riaffrontare dei boss, delle situazioni in maniera molto diversa, perché avevi, che ne so, degli oggetti che ti riazzeravano un contatore o ti riempivano una barra per delle mosse speciali, insomma, ti rende molto diversa la tua run, tra virgolette, la tua playthrough, la tua partita nel complesso. Ok, quindi questo, diciamo, per te è il New Game la Plus. La definizione di New Game Plus, sì. E invece l'endgame? Perché questo è più complicato. Esatto. Endgame, io personalmente mi rifaccio all'idea dell'endgame dei giochi di Pokémon. Oddio. I giochi di Pokémon sono... Non ci avevi pensato. Non i primi. Secondo me anche lì è una cosa che si è, tra virgolette, mostrata. Come dire, è nata con oro e argento, i primi giochi dei Pokémon, perché hanno appunto preso il concetto base del gioco di Pokémon, che era l'affrontare le otto palestre e poi la Lega, e quindi diventare appunto il campione. Se i primi giochi, rosso, giallo e blu, almeno in questa parte, esatto, del mondo, esatto, finivano dopo le otto palestre e la Lega, con oro e argento, dopo le otto palestre si poteva tornare, no, nella vecchia regione di Kyoto e riaffrontare altre otto palestre e una seconda Lega, quindi aveva praticamente raddoppiato il gioco base. Ah, wow. E poi qua ce ne sarebbe da discutere, ma ci sarà. Io prima o poi lo farò un episodio in cui parlerò probabilmente solo di mezzo, solo tu, Jacopo, di Pokémon. Muterò il microfono. No, beh, dai, avremo ospiti speciali tipo Sala, qualcun altro, tipo Edoardo, che questi che ci hanno giocato tanto. E appunto dicevo che in realtà non penso che il team di sviluppo l'avesse voluto vedere, come dire, come una cosa in più, ma semplicemente come un gioco più esteso, un gioco diverso, ma che è stato inteso, no, come dopo il finale del gioco base c'era tutta questa cosa in più. E da lì, a quel punto, si è sviluppata tutta, in vario modo, questa meccanica del, una volta finita la storia principale, che equivaleva al battere la Lega, c'erano molte cose in più da fare. Nei giochi successivi si sbloccavano i Pokémon del Pokédex nazionale, quindi quelli che non potevi catturare all'inizio. C'erano le varie torre lotta, che erano strutture speciali in cui c'erano delle sfide particolari. Potevi acchiappare leggendari solo dopo che avevi finito la Lega, eccetera. Cioè, c'erano tante, tante cose da fare. Dopo... No, scusa? Acchiappemol. E dopo appunto aver finito la parte principale del gioco, tanto che ci sono alcuni titoli, soprattutto gli ultimi, che sinceramente il gioco vero comincia alla fine del gioco, per alcuni giochi è giusto, secondo me sì. Ci può stare. Io argomenterei che forse i Pokémon non sono tra questi, ma questo di nuovo in un'altra puntata. Ma scusa, non puoi acchiappare them all in 10 ore? Cioè, sono... No, almeno... vabbè, ma quello ovviamente, però io parlo anche di altre cose. Ma di nuovo, altre cose. E quindi sì, l'idea di base io la interpreto sempre così, ovvero che una volta finito la parte necessaria di gioco, ti si sblocca un intero altro mondo che ti permette di fare cose che inizio non potevi fare, che sono forse anche tra le più, in molti dei casi, le più interessanti del videogioco stesso. no? Quindi è come se la storia principale diventasse un lungo tutorial per arrivare poi, esatto, alla fine del gioco a poter giocare veramente. Ora, io, come dicevo, avevo in mente molto i giochi dei Pokémon per questa meccanica, ma penso che penso sia molto più comune, diciamo, rispetto a quella del New Game Plus, che ha preso molto piede negli ultimi anni. Confermi anche tu, Jacopo? Confermo, perché fare un game è più complicato, effettivamente. Cioè, il New Game Plus non è difficilissimo. Sì, devi bilanciarlo, devi pensarci a cosa tenere, a cosa no, devi fare un po' di testing e così, ma non devi creare nuovo contenuto. Non devi nascondere il 90% del gioco mentre finisci la storia. Quindi, boh, sono abbastanza d'accordo. Quindi, a questo punto direi, parliamo del perché metterne uno, perché mettere l'altro, perché non metterli, perché metterli entrambi. Secondo me, appunto, adesso parlavamo di Pokémon. Sono più interessato adesso a chiederti perché non mettere un endgame in Pokémon, però ci arriviamo dopo. In Pokémon? Allora, per me... Ci arriviamo dopo, dai, facciamo prima la cosa positiva. Okay. Prima, allora, perché metterli? Allora, ci sono alcuni giochi che si prestano molto bene ad un endgame, perché, che ne so, se sono giochi open world o MMO, quindi con tantissimi giocatori, o un game as a service particolare tipo Destiny, un RPG così, tu, diciamo, avere un endgame ti permette di inserire delle sfide, dei boss, dei nemici, delle situazioni molto avanzate, molto difficili, che in una storia normale o in un, diciamo, una progressione normale distruggerebbero un po' il ritmo o la sandbox, tra virgolette, cioè l'equilibrio che c'è fra i vari pezzi delle meccaniche, insomma, del mondo. Quindi tu puoi dare la storia, come dicevi tu, tipo tutorial, no? Cioè fai quelle 10-12 ore di campagna di storia in un mondo più grande, dove hai dei personaggi, dei punti interessanti di storia, hai delle meccaniche sempre nuove, perché aggiungi sempre elementi, perché è una specie di tutorial, appunto. Finisce la storia e i giocatori che non hanno tempo di giocare dicono: apposta, sono contento così, ciao, passo ad altro. Quelli che invece vogliono, magari gli è piaciuto molto il gameplay, o hanno degli amici che giocano insieme, o sono persone che comprano un gioco l'anno ma fanno tutto, cioè lo completano al massimo, fanno tutti gli obiettivi, platino. Il platino, sì. Queste persone possono continuare a giocare e andare in profondità, quindi invece che fare una cosa orizzontale vanno in giù, vanno in profondità, in verticale. Quindi ci può stare che ci sono dei giochi, appunto, molto grandi, molto, diciamo, esplorabili in quel senso, proprio a livello di meccaniche, che si prestano bene, no? Tipo, appunto, io faccio l'esempio migliore in questo caso di Division 2, che diciamo, il primo Division è stato un po' criticato sempre per il discorso dell'endgame, cioè, poi è migliorato, poi il seguito a quanto pare ha avuto uno dei migliori endgame della storia dei videogiochi, cioè, finita la storia, il mondo cambia, il mondo di gioco, cioè non hai più le stesse fazioni, forse dovrei spiegare cos'è. The Division 2 è un gioco dove post-apocalittico, dove c'è stato un virus. Oddio, aspetta, forse non è più post-apocalittico. Un gioco contemporaneo dove c'è stato un virus che ha sterminato l'umanità, e questi, diciamo, vari agenti dei The Division, che è una divisione, appunto, una specie di agenzia governativa, vengono attivati per cominciare a ricostruire la civiltà, da quello che ho capito io. Magari sto sbagliando, adesso i fan di Tom Clancy mi insultano, però tu sei un agente che ha capito loot, cioè equipaggiamento, inventario, così vai in giro e o vai contro i nemici del mondo, quindi PvE, player versus environment, oppure vai PvP, cioè ti metti a sparare agli altri giocatori pure. Ci sono varie modalità, varie cose, ma essenzialmente è tipo un MMO, tipo un game as a service, tipo Destiny. Quindi, che succede? Che tu vai in giro e incontri altri giocatori, puoi sparare, puoi prendergli le cose, ma la cosa principale è che incontri personaggi non giocanti controllati dal computer. Questi personaggi, all'inizio del gioco, durante la storia principale, sono di diverse fazioni. Ogni fazione ha un modo di giocare. Poi faremo un episodio sull'intelligenza artificiale, perché è molto interessante come hanno fatto queste intelligenze artificiali. Però, essenzialmente, ogni fazione ha dei punti forti, punti deboli, li conosci, sai come si muovono, li vedi, vabbè. Finito il gioco, vanno via tutte, ne viene, esce fuori una nuova, una sola nuova, che però è molto, molto stronza, molto tosta, molto difficile da affrontare. Ha pochi punti deboli, ha diciamo, le strategie migliori di quelle precedenti. Fanno la fusione, come in Dragon. Sono tipo una fusione, sì, non è completa, cioè non è tutte e tre, però tipo ne mettono due insieme e sono assurde. E questi, quindi questi nemici che tu incontri nel mondo cambiano e la sfida diventa più alta e le missioni vengono, cioè ce ne sono di nuovi tipi di missioni che puoi fare, nuove attività, cioè nuovi eventi che vedi in giro per il mondo con questi nemici, con questa fazione nuova. E questo cambia tutto, cioè cambia, diciamo, lì inizia la vera sfida per chi vuole averla, per chi apprezza il gameplay di Division, molti no, perché giustamente, tipo io, se sparo uno in testa voglio che muore, però lì no, lì ci stanno i tizi che assorbono proiettili e spugne, però vabbè. Però è fatto molto bene, non solo per questo, anche per altri motivi, proprio di gameplay, è fatto abbastanza bene di Division 2. E quindi questo essenzialmente è il motivo per cui è fatto bene, cioè è... Per chi vuole finire la storia è relativamente corto, non troppo. Poi per chi vuole andare in profondità hai nuovi contenuti, hai nuove sfide per migliorarti, per salire di livello, per completare tutto, eccetera. Hai fatto un'ottima osservazione. Ogni tanto l'endgame serve appunto a rispondere a queste, come dire, a queste richieste diverse dei giocatori. C'è chi è più interessato a vivere una bella storia, appassionarsi un po' al mondo, così, ma poi una volta che ha finito, c'è invece chi ama di più la sfida, no? Il mettersi alla prova con sfide difficili e quindi apprezza un sistema che poi a un certo punto diventa complesso, complicato e che richiede tempo e per... Esatto, tempo e fatica, ottima descrizione. Quindi, sì, cioè, come hai detto, oltre a rispondere a queste due modalità, queste due richieste, queste due voglie dei giocatori, a volte viene anche usato, come dire, in maniera un po' più, non becera, becera suona male, però sì. Sì, la buttano là. Sì, la buttano là giusto per dire magari... Il nostro gioco dura 90 ore invece di 40, per cose del genere, nel senso che purtroppo ancora oggi la durata dei videogiochi viene spesso usata come punto di vendita, come per cose di marketing, vogliono dimostrare che nei loro giochi ci sono cose da fare, quindi ogni tanto aggiungono cose di gameplay, questo appunto endgame, per aumentare la durata complessiva del gioco. Che ci può stare. Se fatto bene, ci può assolutamente stare. Come ma anche nello stesso gioco a volte ci sono entrambe, Assolutamente. Cioè tipo in Final Fantasy XV ci sono cose dell'endgame che sono fighe, che sono... Cioè che ti fanno esplodere il cervello, non posso spoilerare. E cose che sinceramente io potevo anche evitarmi di stare 3 ore davanti allo schermo per fare un dungeon, però vabbè. Cioè, si tratta sempre di bilanciare, appunto, mettere un contenuto perché allunga il gioco e mettere un contenuto perché lo rende più interessante. Ci deve stare un po' tutte e due, più il primo ovviamente, nel fatto appunto, nel discorso dell'endgame, secondo me. Ovviamente. È come dire, la qualità è sempre apprezzata e a volte purtroppo bisogna accontentarsi della quantità, no? Sì, soprattutto cioè, adesso che hai comunque un sacco di come si dice, competizione, non veniva la prova, devi un po', non puoi dare solamente i contenuti, devi anche dare un minimo di qualità, di novità, perché se dai solo contenuti, solamente, che ne so, uccidi 500.000 nemici, ti giri da un lato e c'è Genshin Impact, dall'altro c'è Netflix, dall'altro ancora c'è, ah, adesso testi i due gratis, cioè, dovunque ti giri, la stessa pool, la stessa persona può cambiare gioco, avere la stessa, risolvere lo stesso problema, non so come dire, cioè, avere la stessa soddisfazione, non so come dire, però... Sì, nel senso, nel mondo di oggi in cui la nostra attenzione, no, viene... si lotta per avere la nostra attenzione, ci sono aziende ovunque che ti chiedono no, scegli me. Esatto. Ho provato Amazon con Crucible, hanno fatto uscire Crucible e poi l'hanno fatto deuscire, cioè hanno fatto rientrare e poi non uscirà più, l'hanno cancellato. Questo, cacchio, non abbiamo parlato nel download update. Ma... Vabbè, questa non c'entrava molto, però sì, era... Però sì, appunto, in un mondo odierno, no, dove la nostra attenzione diventa un asset sempre più raro e non ti piace questa mia, wow, asset, questo mio modo di parlare, vuoi, esatto, i giochi devono anche a un certo punto svilupparsi un po' e dire, se vogliamo che i giocatori giochino al nostro gioco e soprattutto spendano soldi nel nostro gioco, un po' di qualità gliela dobbiamo anche dare, cioè va bene cose da fare, ma ce ne hanno già tante di cose da fare, per cui meglio che siano cose da fare interessanti. Esatto, soprattutto quando sono il 90% del gioco. Cioè, se io gioco a Skyrim, sono tipo 20 ore di trama e 100 ore di endgame a quel gioco. Cioè, alla fine, se finisci subito la storia, il resto è tutto endgame. O nel caso anche di, boh, non lo so, forse Final Fantasy 15 un po' di meno, però The Division, tutti questi giochi qua, cioè... Endgame è davvero la maggior parte del tuo tempo di gioco, alla fine, se lo finisci. Mm-hmm. E invece il New Game Plus? Allora, come deve essere? New Game, cioè, Plus. Dove puoi metterlo? In quali tipi di gioco? New Game Plus, avevamo ragionato io e te insieme che appunto fosse una cosa magari per quei tipi di gioco in cui ci sono meno risorse da poter spendere con... per la creazione appunto di questi giganteschi endgame. E quindi come fa una casa che ha magari un po' più indie, che se ci pensi in effetti quando ancora erano usciti i primi Dark Souls, prima che Dark Souls fondasse, anche la From era tra virgolette una casa un po' più indie forse. Però queste case più piccole di produzione, che non hanno così tante risorse da investire nell'endgame, possono creare questa modalità con pochissimo sforzo, semplicemente cambiando qualche parametro, di appunto New Game Plus, dove possono dare ore, altre ore di intrattenimento al giocatore con nuove modalità, nuove sfide, senza semplicemente dirgli prova la modalità più difficile. Perché se ci pensi, in realtà, alla fine è quello, no? New Game Plus è l'evoluzione della modalità difficile dei giochi anni 90 e così. Quando sì, ci sono giochi che hanno entrambe, però sì. Esatto. Per cui, come dire, innanzitutto le minori risorse, no? Il dover bisogno di creare nuovo contenuto senza però poter sprecare troppo. Dopodiché, questo appunto avevamo discusso che si presta molto di più a giochi più lineari, meno open world, sì, in certi casi meno sistematici come possono essere altri giochi. Per cui appunto, se uno ci pensa, Dark Souls è un caso particolare, ma diciamo i Souls in generale sono giochi più lineari, tra virgolette, rispetto a molte controparti con l'endgame, che parlavamo appunto di RPG, MMO, giochi come Pokémon che una volta finito ti faceva fare quello che vuoi. In Dark Souls, nei Souls, ho sbagliato di nuovo, la storia è più o meno definita, la struttura del gioco, molto più importante, lo è molto di più, quindi... per quanto possa essere interessante esplorare e vagare nel mondo, una volta che si sono superate, no, queste sfide, mamma mia, cosa ho detto, queste sfide, no, questo set di challenge in un certo ordine, con delle certe difficoltà, è difficile creare altre sfide altrettanto interessanti, perché ci significherebbe lavorare molto di più sulla struttura, su come vengono presentate al giocatore, eccetera, eccetera. Per cui il fargli rivivere le stesse sfide, ma con dei parametri diversi, con più competenza del giocatore anche, può essere una maniera interessante di riproporre questa avventura. Poi ho dimenticato qualcosa, Jacopo? No, ci sta. Alla fine erano questi i due punti principali che avevamo detto. Ci sono anche giochi che secondo me... Ah no, questo forse ne parliamo dopo, che non ci stava forse così tanto il New Game. Vai, dire, possiamo parlarne ora. Beh, in effetti sì. Che questo abbiamo detto il perché farlo, quindi questo può essere... sono serie ragioni. E a me non so perché era venuto in mente anche giochi come... The Witcher 3 con il New Game Plus, che senso ha? Nel senso, no, carina come idea, hanno detto diamogli qualcosa in più, hanno fatto un lavoro della Madonna con The Witcher 3, con tutti, soprattutto i contenuti gratuiti, successivi di espansione, guarda, lì la sì. CD Projekt Red, tanto di cappello. Diciamo che CD Projekt Red ha fatto talmente tanto bene con The Witcher 3, tra aggiornamenti gratuiti, supporto, migliorie dell'interfaccia, tutto, cioè, e i DLC bellissimi, cioè veramente stupendi, che ora gli perdonano tutto, cioè gli perdonano il fatto che gli sviluppatori sono stati spremuti, tipo limoni. Allora, come opera videoludica, tanto di cappello, poi purtroppo ovviamente gli stronzi ci sono anche probabilmente la CD Projekt Red. Li vedremo. Tra l'altro, ecco, questo avrei voluto citarlo, ma dopo ritorno subito sul discorso, però piccolo accenno. Ho letto Cyberpunk 2077, il nuovo titolo della CD Projekt Red in uscita tra, credo, un mesetto ormai. Sì, esattamente un mese. Sarà per noi Stadia. Sì, sarà su Stadia. Quindi Stadia non è ancora morta, ma ne riparleremo, dicevo. Beh, no, non ancora, fino al 19 è viva. Esatto. Dai, diamogli qualche settimana in più per il tempo dei giocatori di accorgersi quanto gira male o quanto quanto gira male Cyberpunk. Dicevo, appunto, ha fatto un lavoro così estremo in The Witcher 3 che, ok, New Game Plus, ma chi è che si rigioca tutto The Witcher 3 in New Game Plus? Cioè, tutta quella roba lì in New Game Plus? Come fai a... Io pensavo non esistesse nessuno che rigioca Skyrim da capo più volte, però a quanto pare ci sono persone che hanno iniziato tipo 3-4 volte. Ah, ok. Però Skyrim, lì vedi, anche lì Skyrim è più open, più sistematico, come dicevamo. Sì, però anche in The Witcher puoi vedere delle scelte di trama, delle scelte di... Sì, cioè, puoi essere curioso. Vero. Io sarei curioso di iniziarlo per giocare a Gwent, che non ci ho mai giocato, e finire la quest di Gwent, però... Ci sta. Tuttavia, però, se ci pensi, alla fine The Witcher è meno sistematico rispetto... ci sono delle possibilità di build diverse per il personaggio, però anche lì le puoi esplorare quasi tutte, credo, anche nella stessa partita, senza aver bisogno di ricominciare, e soprattutto, come dire, cambia leggermente alla fine il combattimento, non è così radicale come magari può essere in Skyrim. Quindi in Skyrim ce lo vedo il ricominciare il gioco da capo, anche perché non c'è, come dire, c'è tantissimo da fare, però in gioco forse ci sono alcune parti di gioco che fare quelle, come dire, non ti preclude, però diciamo ti rende meno naturale farne altre. Quindi uno può dire, posso giocarlo più volte facendo cose che ho fatto una volta in una partita, cose, qualche altra cosa in un'altra. The Witcher mi è sempre sembrato uno che abbia una quantità di queste cose da fare assurda, però nessuno escludesse molto l'una dalle altre, se non sbaglio. Per cui sì, nel senso, questo New Game Plus lì bellissimo che ci sia, assolutamente. Non so chi ci abbia giocato veramente, perché io non riesco a immaginarlo, faccio fatica, ma quello sono io. Mentre parlavamo prima, dicevi quali sarebbero stati i giochi che secondo te non ci stavano l'endgame? o quando? No, prima mi avevi chiesto, ah no, era come ti immagini un gioco di Pokémon senza endgame? Eh no, sì, cioè tu dicevi non ti, secondo te in un gioco di Pokémon non ci sarà un endgame? No, io argomentavo l'opposto, dicevo che i giochi di Pokémon si realizzano con l'endgame, che secondo me, io argomentavo che senza l'endgame i giochi di Pokémon sarebbero stati un po' troppo scarni per me, che anzi avrebbero Ho capito male, ok. Allora, se mi ero spiegato, ma io, e che anzi avrebbero dovuto cercare di non togliere endgame, ma semplicemente spostare cose dall'endgame nel gioco principale, perché sarebbe diventato molto più interessante. E quindi abbiamo detto, perché mettere endgame e New Game Plus? Alcune cose di quando non metterlo? Effettivamente abbiamo parlato, io ho parlato del New Game Plus qua, però quando anche non mettere New Game Plus, esatto, quando New Game Plus secondo me ci sono, vabbè, nel senso, allora sono alcuni giochi dove proprio non ha senso né l'endgame né il New Game Plus, cioè vuoi che la storia sia questa, che la progressione sia questa, non ci sono elementi che puoi mantenere in una nuova playthrough, non ci sono cose che puoi aprire per un endgame, quindi se è un gioco lineare, un narrativo o senza elementi di, non so, di inventario o di progressione, cioè non ha senso avere un game plus o un endgame. Però in quei giochi dove può avere senso, quindi quelli che abbiamo detto, cioè open world, MMO, RPG, game as a service, cioè qualsiasi cosa abbia un po' di meccaniche aperte, sandbox, così, direi in generale, come per ogni cosa, metterli e basta così non è un più per il gioco, può essere una cosa negativa, quindi tu dici diluiscono troppo quello che volevano dare al giocatore, possono diluire o sminuire quello che è il resto del gioco, perché l'endgame può appunto diluire delle meccaniche che magari concentrate avrebbero più effetto, o comunque non è un gioco che magari ha una, puoi fare una partitina di 20 minuti e poi è ogni volta ricominci. Non so, ti faccio un esempio. Gioco di carte, tipo carte tipo solitario. Di recente ne è uscito uno che si chiama Solitaire Conspiracy, che è un gioco di Mike Peetle, che è quello di Thomas Was Alone, Volume, Subsurface Circular, John Wick X, insomma, ha fatto un sacco di giochini piccoli, indie. Secondo me lui è molto bravo, ma cioè Solitaire Conspiracy è un gioco di carte che ha sia la storia, sia è un gioco di carte, cioè come se aprissi, non so, Spider sul computer e giochi a Spider o a Arts o a quello che è. E quindi, cioè, se ti piacciono i giochi tipo solitario, ti offre questa specie di endgame infinito, dove tu, una volta che hai sbloccato tutti quanti i mazzi per giocare, giochi all'infinito, cioè partite generate. Carino. La difficoltà che vuoi, col timer, eccetera. A me il gioco è piaciuto, ma poi l'ho tolto perché, insomma, giocarci all'infinito a me non interessava. Quindi per giochi del genere o per giochi dove appunto ha senso aprire ed esplorare un po' altre cose, ok. Per altri, cioè, mettere solamente più contenuto così, poi può essere ripetitivo, può essere, boh, non so, non ha senso. Lì è quella vera, no? Quel vero caso in cui io almeno personalmente credo sia molto la scusante aggiungere contenuto solo per aggiungere contenuto. Cioè dire, il nostro gioco ha tanto contenuto da far provare, poi però se è contenuto che è stato messo così giusto per allungare la brodaglia, non ne vale la pena. Esatto, a volte diciamo, anche se il gioco apparentemente non si presta, è interessante fare comunque l'esercizio mentale del pensare, ok, quale sarebbe un endgame in questo gioco? Quale sarebbe un New Game Plus in questo gioco? Perché magari non esce una cosa fattibile, però ti vengono in mente delle nuove idee per il gioco stesso, o a volte, per miracolo, esce fuori un endgame mai visto prima, tipo Hitman. Cioè, Hitman, sia l'uno che il due, quelli nuovi, hanno un endgame che io sinceramente, poi magari mi sbaglio, però io sinceramente non l'avevo mai visto prima, perché cioè, proprio per come è fatto il gioco, tu fai, cioè la storia, hai dei bersagli durante la storia, dei livelli enormi, però hai più modi di affrontare delle situazioni, hai dei modi che sono fatti dallo sviluppatore, cioè hanno tipo delle mini quest nel livello per raggiungere il tuo bersaglio in un certo modo o ucciderlo in un certo modo, eccetera. Mm-hmm. Più coreografati, diciamo. Più coreografati, esatto, più filmati, storie, eccetera. E altri invece che ti puoi fare tu con i sistemi del gioco, con le meccaniche del gioco. E quindi hai, vabbè, questo. Però hai anche l'endgame che essenzialmente sfrutta tutte queste strade diverse per mettere nuovi contratti, cioè nuovi bersagli da uccidere nei livelli, che sei un assassino sul contratto, quindi quello fai, con nuove meccaniche, nuovi vestiti, tipo vestito da Babbo Natale, nuove sfide e anche nuove cose sbloccabili che puoi usare nei contratti successivi. Quindi cioè, a volte escono fuori cose, secondo me, stupende, tipo un contratto dove devi uccidere Sean Bean, che penso sia l'attore che è morto più volte nella storia del cinema. E Sean Bean si chiamava tipo l'immortale, una cosa del genere, una cosa stupida. Quindi avevamo messo sto Sean Bean nel gioco, che faceva sto personaggio un po' stronzo, e in un livello che però originalmente era per un'altra cosa, era un altro livello per altre cose. Ed è figo perché cioè, è a tutti gli effetti utilizzare un livello che hai già fatto, che è enorme, no? Non mi ricordo se era un livello tipo una pista di Formula 1, non mi ricordo qual era il livello che hanno usato per questo contratto. Però, siccome questo livello appunto è così grande e molti lo giocano una volta sola, lo riutilizzi per far vedere delle parti che molti giocatori non avrebbero mai visto. Assolutamente, quello è stato decisamente geniale. Ma direi che poi, in questo caso, Hitman penso sia uno tra gli esempi più lampanti di videogiochi sistematici, ovvero in cui è stato creato questo sistema di elementi che interagiscono tra loro e da qui poi appunto le situazioni possono creare situazioni, no? Creare l'incipit di qualcosa e poi dopo lasciare che il sistema si evolva a modo suo. E penso che questo sia assolutamente uno delle occasioni migliori per mostrare un po' di endgame come in questo caso. Sì, poi ci sono tantissime cose dietro, ne parleremo sempre in quell'episodio sulle intelligenze artificiali, su come funziona Hitman. Ci può stare. E, non so, quindi altre cose positive, negative? Io credo che abbiamo detto tutto, inteso perché metterlo, perché non metterlo, e direi che se abbiamo qualche altro esempio di, no? Grande... Qualche aneddoto. Esatto, io, come dicevo, l'endgame per me sono sempre stati i giochi dei Pokémon in cui si apriva veramente il mondo dei Pokémon, potevi completare... No, l'endgame dei Pokémon era l'ottenere tutte e cinque le stelle nella scheda allenatore, cioè fare le cinque cose più importanti del gioco, che di solito una era sempre finire il Pokédex, una era battere Torrelotte, poi ovviamente cambiava a seconda del gioco. Ci sono stati endgame poi assolutamente interessanti, come quelli nei Final Fantasy. Qua avremmo dovuto chiamare Edo, nostro amico grande esperto del mondo dei Final Fantasy, che appunto una volta che hai... Ecco, anche quello dei Final Fantasy è un caso particolare, perché per gli RPG l'endgame tecnicamente si apre, no? Avevamo argomentato anche un attimo prima dell'ultima cutscene, diciamo, dell'ultima battaglia. A volte il gioco ti dice proprio, sei sicuro di voler andare avanti? Guarda che dopo questo punto non si torna più indietro, e quindi ti dà l'opportunità di fare tutte quelle cose che non potevi che dopo non potresti fare. Ed è un dicevo in questo caso interessante come Final Fantasy si aprono, ti permettano di visitare il mondo con la tua aeronave, più delle volte sempre un'aeronave. Boss nascosti, armi segrete nascoste in qualche dungeon, eccetera, eccetera. Ma qui, come dicevo, chiedete a Edoardo, il suo link è www.mipiacciononifinalfantasy.com. faremo l'episodio pure su Final Fantasy, sulla serie. Ci sarà. Avevi citato anche God of War come esempio. Sì, a me è piaciuto molto l'endgame di God of War, perché non è un endgame troppo lungo. Cioè, alla fine, dopo che hai finito il gioco, la storia principale, hai tutto il tempo che vuoi per finire un po' i collezionabili, finire un po' il tuo potenziamento delle armature, trovare tutte le armature del gioco, eccetera. Ed è figo perché si fa principalmente in due livelli nuovi, tra virgolette. Cioè, due livelli che durante la campagna puoi sbloccare, ma di solito si sbloccano alla fine, che sono due diversi modi di giocare proprio. Cioè, nel senso, durante il gioco God of War è tipo, cioè appunto un hack and slash terza persona, tu picchi le persone, fai le tue combo, fai le tue abilità speciali, eccetera, hai dei boss e hai dei nemici normali. In questi due livelli invece cambia proprio il gameplay, cioè uno diventa tipo un roguelike, cioè diventa, tu hai questo labirinto che ogni volta si riforma, con delle trappole, dei nemici, dei mini boss, e la conformazione di questo labirinto è tale per cui, se non ricordo male, non puoi starci troppo a lungo. Cioè, a un certo punto finisce il tempo e se non esci, muori. Mi stai dicendo che era un roguelike? Quindi. Esatto. un roguelike mi stai tempo. Dicendo che tutti i giochi alla fine diventano un roguelike. Nel 3020, no? Esatto, usciranno solo roguelike, esatto. L'evoluzione finale del gioco. Esatto. E quindi vabbè, vai lì, raccogli dei materiali che sono solo lì o che alcuni materiali anche no, e alla fine, se lo fai un tot di volte e fai delle cose specifiche, poi non mi ricordo se c'è un boss lì dentro oppure, ma essenzialmente prendi l'armatura figa, le ultime armature del gioco. E l'altro livello invece hai tutte quante delle sfide di combattimento che sono tipo ondate di nemici, molto molto toste, cioè veramente toste, e alla fine di questa scalata, cioè di questi step, di queste sfide di combattimento, hai il boss che è una Valchiria. La Valchiria sono tutti boss secondari, le Valchirie di God of War, e quando le sconfiggi tutte, devi sconfiggere la regina delle Valchirie, che è una cosa... Cioè, sai quei combattimenti da 12 minuti dove sudi, tipo il controller ti si scioglie in mano, che ogni volta che perdi vorresti spaccare tutto, cioè che ti vorresti tirare, è quello, eh. Quindi diventa anche un Souls-like, insomma, per chiudere il giro. E qui a me è piaciuto molto, appunto perché è molto vario, mette molte carne sul fuoco, ed è molto corto, cioè non è 100 ore, saranno altre 20 ore dopo 40 di quella principale. Ma forse anche di meno, non so. E altri endgame di cui volevo parlare io, vabbè, appunto, Final Fantasy XV l'ho già accennato, non c'è troppissimo da dire rispetto a quello che ho detto prima. Anthem, disastroso. Disastroso completamente, cioè Anthem... proprio, cioè, che dire, che non è già stato detto in 500 articoli. Anthem, cioè, ha rotto il sistema di drop tipo per non so quanto tempo, qualche giorno forse, e praticamente le persone hanno giocato tantissimo in quel periodo che era rotto, perché essenzialmente il gioco droppava più oggetti rari, cioè quando uccidevi dei nemici, dei boss, le armi rare del gioco avevano molto più probabilità di venire create, cioè di venire spawnate nel gioco, e il gioco improvvisamente è diventato divertentissimo, cioè tutti quanti avevano queste armi strane, nuove, rare, e tutti si stavano divertendo così, e giustamente hanno detto no, l'unica cosa che rende divertente il nostro gioco va tolta perché è un problema. Quindi hanno risolto questo drop di rari, la gente ha smesso di giocare, il gioco non si è più ripreso, essenzialmente ora è morto, cioè non gioca nessuno. Your fan is wrong, giusto? Esatto. Ma il problema per cui è morto in realtà non è questo, cioè aveva tanti problemi pregressi di bilanciamento, di bug non risolti, di contenuti in endgame assenti, cioè non c'era un piano a lungo termine, un gioco che è stato affrettato, cioè è stato invece di prendersi più tempo per lanciarlo in uno stato decente, lo hanno fatto uscire senza contenuti, pieno di bug e senza un piano per il futuro che non fosse sistemiamo i contenuti. Cioè, era questo essenzialmente il problema di Anthem. La storia era confusionaria, non era molto interessante, era un po' un misto di fantascienza e fantasy alla Destiny, ma ancora più confuso di Destiny, che già è bello confuso. L'unica cosa figa che aveva è che a me dispiace molto che appunto non è un gioco che continuerà, è il sistema di volo. Quel gioco è veramente il primo gioco dove ti senti come Iron Man, per dire, you feel like Iron Man, anche se non è un gioco di Iron Man. Cioè è veramente meglio di Avengers, ti fa sentire come una persona dentro una tuta altamente tecnologica che però ha bisogno di... cioè devi essere abbastanza bravo ad utilizzarla, diciamo, perché si surriscalda, perché comunque hai abbastanza controllo di quelle manovre che fai. E sinceramente, cioè, mi ha divertito molto. Io ho giocato all'alfa di Anthem e quella parte mi ha sempre divertito, prendere il volo, fare delle corbazie, spostarmi, sparare, riposizionarmi. Sono veramente dispiaciuto che sia morto come gioco. Spero che lo riporteranno magari fatto bene stavolta in qualche modo, ma vabbè. Vabbè, che altro? Non so, hai altro? Altri? Io no, io penso di essere... Ah, adesso non parliamo perché non sappiamo nulla. Io ho mai toccato Destiny, non idea. Anche io. Devo ammettere, mi dava molto molto l'idea che se posso fare un po' il, come dire, il, quello lo con snob. I pregiudizi, no, non il snob, quello con i pregiudizi, perché no, veramente non l'ho mai neanche provato, direi che sia veramente tanto, tanto grind, ma tanto, tanto grind. È tanto grind, però vabbè, io ho fatto solo il tutorial di Destiny 2 e mi avevo provato una beta di Destiny 1 tantissimo tempo fa. Io sono uno strafan della Bungie, cioè io... Cioè, l'ho ripetuto 50 volte in questo podcast. Io amo Halo, la follia, tutti i primi... Voglio dire, se l'è anche meritato di avere degli strafan la Bungie. Se l'è meritato. Adesso bisogna vedere poi se continuerà a meritarselo, ma quello è un altro discorso. Quindi, vabbè, nonostante questo, anche se, diciamo, le armi sono comunque belle da sparare, non so come dirlo, cioè, hai un bel feeling, un bel feedback con le armi... Comunque è veramente, a me questi giochi tipo appunto Borderlands non li digerisco più. Io ho giocato Borderlands 1 e 2, mi sono piaciuti, ma ho smesso di di apprezzare troppo il fatto di sparare ad un personaggio e quel personaggio ci mette 500.000 proiettili a morire. Cioè non, è meno soddisfacente di usare una spada, secondo me. Non so cosa c'è di problematico. E Destiny ha il problema che è proprio fatto apposta per avere nemici spugne, perché c'hai raid, c'hai boss enormi. Se hai degli amici, magari è divertente proprio. Io credo che anche lì tu dicevi, adesso preferisci le spade al proiettile. Io penso sia solo il fatto che all'inizio sono partiti bene a fare gli sparatutto, perché ci stavano, erano più semplici. Poi sono arrivati giochi alla Dark Souls, Sekiro, cose del genere, che hanno rinnovato completamente il combattimento con la spada, e adesso semplicemente le spade sono più belle delle pistole, perché ci sono riusciti. Si spera che nel prossimo futuro magari anche le armi da fuoco, no, ritornino un po' in auge sotto questo punto di vista. O che almeno capiscano qualcosa che le rende... solamente una parte di tante, non so come dire. Cioè, per me Cyberpunk mi spaventa di meno da questo punto di vista, perché ho il paragone con Deus Ex, e io in Deus Ex non usavo le armi, cioè io usavo solamente diplomazia, stealth. Quindi, cioè, in Destiny usare le armi è comunque uno standard per tutte le classi, da quello che mi pare di capire, per tutti i tipi di gioco e di... Sì, perché alla fine è uno sparatutto, no? Esatto. Quindi, che so, magari faranno Destiny 3 dove usi, che ne so, delle abilità innate, delle cose. Destiny 3, solo arma bianca. però le armi bianche sparano proiettili o qualcosa del genere. Ci sta. No, vabbè, tipo mi ricordo in Anthem, prima di tutto in Anthem alcuni nemici non erano umanoidi, ma questo penso anche in Destiny, ci sono dei nemici robotici, eccetera. In Anthem la cosa, diciamo, positiva è che, da quello che mi ricordo io, poi magari mi sbaglio, la tua arma era una delle cose che facevi. Cioè, mm-hmm. mi ricordo che in Anthem era molto più importante, magari mi ricordo male io, però era molto più importante effetti speciali, cose di abilità che hai, combo. Magari è così anche in Destiny, non lo so, cioè mi rifaccio appunto a quel poco che ho giocato di tutti questi giochi. In generale è difficile che ora un game as a service mi porti dentro con queste cose, con queste meccaniche. L'unico che forse mi interessa è Gotham Knights, e forse anche Suicide Squad, vedremo come sarà il gameplay. Però è l'unico sull'orizzonte che vedo un pochino che un pochino sembra essere leggermente interessante, se è questo. Però vedremo, non si sa mai. Se no, nuova idea, Destiny 3, però con le Gunblades di Final Fantasy. Bungie, segnatela, che questa è l'idea da $1 miliardo. Sei proprio squallido, Marco. E quindi siamo arrivati squallido. Anche quest'oggi al... L'ho capito adesso. No, è troppo brutto, effettivamente. Siamo arrivati anche quest'oggi al nostro momento preferito, giusto? Quello che i nostri ascoltatori aspettano con ansia. I nostri ascoltatori. Ascoltatori ascoltino con ansia, giusto? Sigla! Kept you waiting, huh? Bene, Marco. In realtà non ce lo siamo preparati, però sappiamo entrambi di quali giochi parleremo. C'è... Cioè, non c'era bisogno manco di dirlo. Come dicevamo... quelli sono gli unici due giochi che hanno endgame. Giustamente, come dicevamo la volta scorsa, Police Notes, che è stato... No, ovviamente ci riferiamo... Beh, in realtà però qua c'è da fare una discussione, perché se ci pensiamo bene, alla fine i veri endgame... nei giochi di Kojima sono iniziati, io argomenterei, da Peace Walker in poi, o sbaglio? Allora sì, in realtà ci sono più giochi che hanno Endgame e ci sono più giochi che hanno New Game Plus di Kojima. Quelli più, secondo me, eclatanti sono Metal Gear Solid 5 e The Stranding, però in Peace Walker c'era già un Endgame. In Metal Gear Solid 3 puoi argomentare che c'era un mezzo Endgame, una briciola di Endgame. Qual era il Metal Gear Solid 3, perdonami? In Metal Gear Solid 3 tu avevi un minimo di open world a un certo punto, di giungla, e mi ricordo che potevi fare alcune sfide, alcune cose di sopravvivenza, cioè c'era un minimo di... Sì, sì, ok, ok. Erano tipo, ti giuro, 30 minuti per patinare il gioco, da quello che mi ricordo, cioè, su PS Vita. Oddio la PS Vita, andiamo avanti, ignoriamola. E poi di New Game Plus non mi ricordo se c'era in alcuni giochi, tipo, mi sa, che sono i 3, 2, 4, non mi ricordo. Ma sai che secondo me non c'era molto New Game Plus nei giochi di Kojima? Mi ricordo qualcosa, ma forse mi ricordo male. Perché vedi, anche lì effettivamente, se ci pensi, i giochi di Kojima, per quanto abbiano dei sistemi estremamente interessanti come gameplay, li giochi per la storia, li giochi perché... sono una bella storia, hanno un universo narrativo assurdo, assurdamente interessante, però una volta che li hai giocati e hai visto, non essendoci finali alternativi o doppi o finali nascosti, cose così, non hanno questi motivi per rigiocarli, una volta che li hai vissuti. Tranne Metal Gear Solid 5. Tranne. Ma quello purtroppo è un discorso a parte. Però sì, cioè, decisamente i giochi più da endgame sono quelli di Metal Gear Solid 5, che probabilmente, di nuovo, se lo sviluppo fosse stato completo, avrebbe avuto un endgame della Madonna, che è stato ridotto, ma comunque... è rimasto abbastanza interessante. Vabbè, abbiamo avuto anche un finale che non ha... Cioè, non chiediamo troppo adesso. E... è troppo, effettivamente. Tuttavia, Death Stranding è decisamente... ha un endgame molto particolare, se ci pensi, perché alla fine... oltre al fatto che ci sono 3-4 finali prima dell'endgame, ma per come sua particolarità, però il suo endgame appunto è il terminare, il completare, no? Queste connessioni che hai creato nel mondo. Endgame, anche in questo caso, io l'ho trovato molto originale come cosa. Beh, no, è difficile dire l'endgame originale, è il gioco a essere originale come cosa, quindi l'endgame ci è costruito sopra. Mm-hmm. Però è carino perché molto alla Kojima, più che molto alla Kojima, molto come giochi arcade alla giapponesi proprio, no? Ogni piccolo completamento in Death Stranding si parlava di far crescere la fiducia che queste varie persone sparse per il mondo avevano nei tuoi confronti e che quindi sì, appunto, creare questo rapporto di fiducia tra te e queste persone e ad ogni stella, perché veniva misurato in stella completate, ti sbloccavano sempre qualcosina, che a volte erano delle figate, tipo potenziamenti di equipaggiamento, esoscheletri che non ti facevano cadere, armi, lanciarazzi, cose del genere. A volte erano più cose simpatiche, tipo portachiavi, ologrammi da poter inserire nel gioco, eccetera, eccetera. Quindi anche lì un endgame molto da completisti, molto da arcade giapponese, con quelli che vogliono sbloccare ogni possibile cosa sbloccabile. Da Sabaku. Sto ancora continuando la serie del di completamento. Posso fare un piccolo spoiler? Prego, voglio dire. Il tizio che ti dice di consegnare le pizze. Sì. Cioè, a che punto scopri che in realtà è Troy Baker? Beh, penso quando consegni l'ultima pizza che ti lascia entrare nel suo... ma quante pizze devi consegnare? Mi sembra tipo almeno 5, una per stellina, può essere? Ah, ok, pensavo peggio. Ora sì, almeno. Perché io nel frattempo ho venduto la mia PS4 e ho venduto Death Stranding. Quindi non potrò mai giocarci e finirla. Cioè, non ci giocherò mai più, penso, perché ricominciare mi viene male. Cioè. Troy Baker. Un giorno dobbiamo fare una puntata anche su Troy Baker. Farò fare l'uomo in mezzo a tutti gli altri, le personalità, no? Homo Ludens. Assolutamente. È lui che più personalità, più che personalità del videogioco, è personalità del doppiaggio, del voiceover. Ma vabbè, ne parliamo un'altra volta. Però dai, cioè... Sì, è diventato famoso molto per i videogiochi, e ci sta. Ha buon ragione. Quindi... Dopo qualche altra cosa da aggiungere sul nostro caro amico? Ma a me è piaciuto il vecchio Hideo, A me è piaciuto l'endgame di Metal Gear Solid 5, non l'ho completato al 100%, ma ci ho giocato parecchio, l'ho fatto tipo 100 ore su Metal Gear Solid 5. E mi è piaciuto perché ti consentiva sia di avere sempre qualcosina di nuovo, sia di utilizzarla per cose che non fossero trovare qualcosa di nuovo. Cioè, nel senso, c'era un mezzo sbocco, una mezza utilità in tutto quello che facevi, cioè usarla contro altri giocatori. Cioè, tu prendevi quello che trovavi e lo usavi per potenziare la tua base, e così quando arrivava un giocatore a romperti le palle, veniva ucciso. Giusto, l'endgame della Metal Gear Solid 5 era anche quello delle basi, assolutamente. Cioè, tu avevi le tue basi, potevi andare in altre basi a rubare cose, a rubare bombe nucleari, o poi potevano venire loro a rubare cose nella tua base. A me è successo, tipo, 3 volte. Non avevo niente, però qualcuno è venuto lo stesso divertirsi a farsi un giro. E mi è successo una volta a me che mi sono infiltrato nella base di questo qua per vendicarmi, e il tizio mi ha trovato e mi ha ucciso, giustamente. Che se l'aspettava. E quindi quello mi è piaciuto. Il endgame di Death Stranding un po' di meno, cioè, sinceramente. Sì. Ma perché, come abbiamo già detto, endgame... cioè, storia interessante, gameplay un po' meno a questo giro, no? L'avevamo accennato già altre volte, quindi anche lì, alla fine dell'endgame si basa tutto sul gameplay, quindi... Ma nell'endgame di Peace Walker c'era Monster Hunter. Sono ricordato ora. Che troia, è vero. Nell'endgame di Peace Walker sbloccavi le missioni per uccidere il T-Rex e gli altri, mostri di Monster Hunter. Che non era il T-Rex, mi immagino. Sì. No, vabbè, non so come si chiama il Monster Hunter, il T-Rex, però era un T-Rex. Sì, cioè, è vero, probabilmente di noi due, forse quello più appassionato di Monster Hunter sono io. Sì, no, io ho preso il 3 sul tuo consiglio, ma ci ho giocato penso un'ora perché per me Monster Hunter è troppo, cioè non ce la faccio. Ci sta. Ah, tra l'altro hanno finito anche con l'ultimo... No, stiamo facendo molte divagazioni in questo episodio, ma hanno finito anche con lo sviluppo, l'espansione, ecco, dell'ultimo Monster Hunter, Monster Hunter World, e adesso stanno sviluppando quello successivo, il 5, che... Ah, attenzione! L'ho annunciato questa settimana o quella scorsa, non ricordo. Va bene. Quindi, cari ascoltatori, grazie ancora per averci ascoltato nelle nostre digressioni, varie digressioni e lucubrazioni. Quindi, vi ringraziamo per averci ascoltato, speriamo che la puntata vi sia piaciuta. Io sono Marco. Io sono Jesse, in questo episodio ci sta tanto. E alla prossima, continuate a giocare. Ciao ciao. Thank you.